Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Eccoci di nuovo insieme, ancora buonasera a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia. Vi raccontiamo la giornata economico-finanziaria, molto interessante anche oggi per tutte le notizie che ci sono, ed ero qua pronta ad aspettare il primo messaggio appunto in arrivo che chiedesse la fine di Sebastiano Barisoni. Sono stata accontentata in due nanosecondi e allora ve lo ribadisco, così almeno siete tutti più tranquilli. Sono stata autorizzata a dirvi che Sebastiano si è rotto una gamba, per cui ha qualche difficoltà a venire in ufficio, deve anche subire un intervento chirurgico. Noi lo salutiamo con affetto, ma prima di almeno altre 3 settimane non lo riavrete qui a questo microfono, per cui dovrete accontentarvi della cronaca asciutta delle notizie della giornata. Io spero di far bene il mio lavoro lo stesso, non lo faccio sicuramente bene quanto lui, ma ancora per qualche giorno, per diversi giorni, ci sarò io a questo microfono e nella prossima settimana anche Simone Spezia. Per cui questo è il punto della giornata, il bollettino medico che vi abbiamo dato, esattamente come si fa quando sta non troppo bene o un pontefice o magari un capo di Stato. Quindi anche oggi abbiamo il punto della situazione. Detto questo, andiamo alle cose serie, non perché naturalmente l'incidente a Sebastiano non sia serio, ma andiamo alle notizie di cui parleremo oggi. Allora, questa è una notizia che approfondiamo anche sollecitati dai molti ascoltatori che ci hanno chiesto di parlarne. L'avevamo lasciato indietro questo argomento, non è riportato da tantissimi giornali, per la verità il Sole 24 Ore lo ha fatto Vito Lopsi, il collega appunto che in particolar modo scrive per l'online del nostro quotidiano. Parliamo di quello che avrebbe indicato il Fondo Monetario Internazionale nel suo ultimo Fiscal Monitor. In un piccolo box nascosto a pagina 49 di questo rapporto appunto si parlerebbe di come mettere una pezza alla crisi del debito, e il Fondo Monetario indicherebbe ai paesi in difficoltà: fate una bella patrimoniale, un bel prelievo forzoso, un prelievo di capitale che ammonterebbe almeno al 10% della ricchezza nazionale del paese di riferimento. Lo commenteremo questo rapporto e questo box anzi di questo rapporto, perché il Fondo Monetario, una volta che poi è stata diffusa questa notizia sui giornali italiani, ha fatto subito marcia indietro e dice: non è vero che raccomandiamo una patrimoniale nell'Eurozona, ma in realtà il sasso nello stagno è stato tirato, adesso non si sa come recuperarlo, e ne parleremo appunto tra un po'. Poi, per quello che riguarda la giornata di borsa, dopo l'accordo che vi abbiamo raccontato ieri, raggiunto al congresso americano per finalmente innalzare il tetto del debito, anche se la decisione è presa in via temporanea, le borse ieri appunto sulla scia di questo accordo che era arrivato al Senato nel tardo pomeriggio erano andate molto bene, erano letteralmente volate, addirittura Milano si era riportata sui livelli dell'estate del 2011, sui massimi anche Wall Street. Oggi naturalmente, una volta che la tranquillizzazione al mercato è arrivata, il mercato si prende una pausa e tutti gli indici sono in perdita in Europa, anche se per la verità le cose adesso vanno un po' meglio rispetto alla mattinata. Abbiamo mezzo punto di calo a Milano, a Francoforte, Parigi perde lo 0,27% e in calo di mezzo punto anche Wall Street. Naturalmente parleremo anche di questa giornata di borsa. Lo spread fra BTP e Bund è di nuovo sopra i 230 punti base e noi parleremo anche di questo nel corso di Focus Economia, perché abbiamo in programma di intervistare Maria Cannata, direttore generale del Tesoro italiano, visto che oggi è arrivata l'attesa notizia, almeno per molti risparmiatori che sono affezionati a questo titolo: dal 5 all'8 novembre arriva la quinta edizione del BTP Italia, quindi ci faremo raccontare le caratteristiche di questa operazione, cosa si aspetta il Tesoro e tante altre notizie ancora. Poi parleremo della situazione economica del Mezzogiorno, sempre più drammatica. Oggi è stato diffuso il rapporto Svimez che parla di un Sud che nel primo trimestre di quest'anno ha perso 166.000 posti di lavoro rispetto ad un anno fa, scendendo sotto la soglia dei 6 milioni di occupati. Non ne si raggiungeva, non si toccava questo livello dal 1977. Questo è, come dire, anche un po' un dato importante da considerare, visto che domani si apre a Napoli il convegno dei giovani di Confindustria e chiaramente l'emergenza Sud verrà di nuovo rispolverata, visto che a quanto pare da un po' di tempo non ci sembra proprio all'ordine del giorno anche dell'agenda politica. E poi un'altra cosa della quale parleremo, ve lo anticipo già, A quanto pare potrebbe esserci nei prossimi anni, non è ancora una cosa che dovrebbe accadere a breve, ma anche delle condizioni, potrebbe arrivare una nuova stangata fiscale sulle accise. E questo perché è stato quantificato anche dal Sole 24 Ore quale potrebbe essere l'aumento delle accise sulla benzina, sulle sigarette e anche appunto ad altri livelli per i contribuenti: 3 miliardi per il 2015, 7 miliardi nel 2016 fino ad arrivare a 10 nel 2017. Se il commissario alla spending review Carlo Cottarelli non farà il suo dovere e non dovesse riuscire a fare appunto tutti i tagli che il governo appunto si auspica di fare. Questo quindi un po' il punto della giornata con i temi che approfondiremo. Se volete commentarli con noi potete farlo alle 349-238-6666 e adesso andiamo alle notizie in breve. Allora andiamo come sempre alle prime notizie che riguardano le materie prime. Oro in lieve crescita in Asia questa mattina, $1,280 l'oncia. Il prezzo dell'oro è stato visto in crescita anche grazie all'accordo in extremis sul debito americano per evitare il default. Il metallo con consegna immediata avanzava di circa lo 0,3%, visto che molti investitori reputavano l'intesa raggiunta a Washington ancora non definitiva. Dopodiché la proclamazione, cioè la firma di questo accordo da parte del presidente Obama è arrivata alle 4 di questa mattina ora italiana, per cui poi di conseguenza tutto il resto si è mosso appunto, ma fino a quando l'annuncio non è arrivato appunto le materie prime si sono mosse dietro alle indiscrezioni che davano ancora non in arrivo questa intesa fra repubblicani e democratici. Petrolio a New York invece a $100,89 al barile. In 5 anni, no scusate, mi viene da ridere perché state tutti commentando le condizioni fisiche di Sebastiano Barisoni, che salutiamo ancora, vi daremo il bollettino medico se lo vorrete tutti i giorni, perché no. In 5 anni, dal 2005 al 2010, gli 11 paesi più industrializzati del mondo sono riusciti a risparmiare circa 4 miliardi e 200 milioni di barili di petrolio, corrispondenti a prezzi attuali a $420 miliardi. Questa notizia è stata data all'interno di un rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia. Il rapporto è stato presentato ieri, a 40 anni dallo shock petrolifero. Era infatti proprio il 16 ottobre del 1973 quando i paesi arabi imposero l'embargo del petrolio agli Stati Uniti a seguito della guerra dello Yom Kippur, determinando cadute negative all'economia di tutto l'Occidente. Secondo l'agenzia, il risparmio è stato possibile grazie a specifiche politiche di risparmio energetico. Il livello degli investimenti in efficienza, continua il rapporto, e il conseguente risparmio energetico sono così importanti da chiedersi se l'efficienza energetica, piuttosto che un combustibile nascosto, non sia il primo combustibile del mondo. E allora, come vi dicevamo, alle 22:12 ora americana, alle 4:12 di questa notte in Italia, e cioè a meno di 2 ore dal default, la Camera ha dato il suo definitivo via libera all'intesa già approvata al Senato, con cui riapre negli Stati Uniti lo Stato federale fino al 15 gennaio e fino al 7 febbraio si innalza il tetto del debito. L'intesa è stata approvata con una maggioranza bipartisan di 285 sì e 144 contrari, 4 i parlamentari assenti. Fra i favorevoli, nessuna defezione fra i 198 democratici presenti in aula, spaccato invece il gruppo repubblicano. Gli uffici federali dunque oggi riaprono i battenti e 800.000 dipendenti pubblici americani sono stati richiamati finalmente al lavoro dopo la fine dello shutdown e l'accordo sul tetto del debito. La normalità americana però in realtà resta un po' lontana, perché occorreranno giorni per rimettere in moto la macchina della burocrazia federale. Anche solo contattare tutti i dipendenti forzatamente assenti richiederà tempo e risorse. Pensate che oggi per la prima volta dopo almeno 2 settimane hanno ripreso ad essere diffusi i dati macroeconomici che in genere nel primo pomeriggio italiano vengono appunto diramati, e quello, il primo di oggi è stato quello relativo ai sussidi di disoccupazione che sono scesi di 15.000 unità nell'ultima settimana, attestandosi a 358.000 sussidi complessivamente distribuiti. Il dato è inferiore alle attese del mercato. Chiaramente la Cina ha accolto con favore la notizia dell'accordo sul debito USA alla fine dello shutdown e la mossa da parte del Congresso americano, ha detto in una conferenza stampa la portavoce del ministro degli esteri, è stata adottata in conformità con gli interessi degli Stati Uniti, ma è soprattutto servita ad assicurare la stabilità economica globale. La Cina però impugna bastone e carota contro gli Stati Uniti, perché mentre da una parte il governo, come avete sentito, ha applaudito all'accordo bipartisan che ha scongiurato, almeno per l'immediato, l'insolvenza sui pagamenti, contestualmente l'agenzia cinese Dagong ha declassato il rating assegnato agli Stati Uniti. La valutazione passa da A ad A meno, mentre già da tempo gli USA sono stati rimossi dalla categoria AAA da parte del giudizio appunto della società asiatica. Ma soprattutto Dagong ha lanciato dure accuse alla stessa struttura istituzionale americana, affermando che di fatto non è in grado di risolvere il crescente problema del debito federale e il pericolo di una insolvenza. Oggi è toccata la banca Goldman Sachs a diramare i suoi dati trimestrali. Il terzo trimestre per il gruppo si è chiuso con un utile migliore del previsto grazie all'attività di banca di investimento che ha compensato il crollo, meno 44%, delle entrate da trading obbligazionario. Andiamo in Europa, adesso la Spagna fa il pieno in un'asta di titoli di Stato a 3-5 anni con tassi in discesa su entrambe le scadenze. Il Tesoro iberico questa mattina ha assegnato 2 miliardi e mezzo di euro di bonus. Sui titoli a 3 anni il rendimento è sceso al 2% dal 2,22% dell'asta precedente. Sul titolo a 5 anni il rendimento è sceso al 3% dal 3,12% dell'asta precedente. Lo spread fra BTP e Bund oggi è ritornato a 235 punti base con il rendimento del titolo decennale al 4,2%. Ieri ricordiamo che il differenziale era sceso sotto quota 230 punti per la prima volta dal luglio 2011 sulle attese di un accordo sulle debito USA. Però c'è anche da segnalare, come ha fatto questa mattina il Sole 24 Ore in un piccolo box curato da Maximilian Cellino, se questo differenziale si è ridotto non è tutto merito dell'Italia e merito per la verità più che altro dei rendimenti dei titoli tedeschi che hanno ripreso a salire. È il Tesoro il ministero più colpito dai tagli decisi con la manovrina per riportare il deficit entro il 3%. Su un totale di 980 milioni, via 20 settembre, subisce una riduzione delle risorse di quasi 705 milioni di euro, cifra che proprio perché è attribuita al Ministero dell'Economia potrà comprendere le voci più varie. Drastico anche il taglio alla difesa, meno 130 milioni, mentre il Ministero delle Infrastrutture vede gli stanziamenti ridursi di oltre 50 milioni. La Commissione europea intanto sta avviando, come previsto, la valutazione della legge di stabilità italiana e valuterà la credibilità del gettito delle misure prima di dare il suo parere. Oggi lo hanno spiegato fonti europee, precisando che in queste ore continuano ad arrivare a Bruxelles documenti collegati alla legge. Intanto il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni ha riconosciuto come nella legge di stabilità si poteva fare di più, ma bisognava, per rimanere nei limiti, fare più tagli e con mancanza di una spending review accettata e collaudata questo si è rivelato difficile, è quanto avrebbe detto appunto lo stesso ministro in un incontro con la stampa estera. L'intervento della legge di stabilità, continuato Saccomanni, è significativo perché garantito per un periodo triennale. L'Italia insisterà in Europa per porre maggiore attenzione al problema della crescita. E un altro ministro quest'oggi ha espresso il suo commento sul tema della legge di stabilità. È stato il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, questa mattina ha partecipato al programma Omnibus sulla 7 e ha detto i costi standard alla fine dell'anno dovrebbero essere finalmente completati e così si potrà finalmente aggredire la spesa pubblica in maniera più seria. La manovra non è che si esaurisce col cuneo fiscale. E in questo senso credo che quindi sia importante che il giudizio che verrà dato e poi gli eventuali cambiamenti del Parlamento prendano in considerazione tutto, tra cui il fatto di non aver toccato la spesa sanitaria. Avete letto anticipazioni che parlavano inizialmente, più o meno vere, dell'idea di tagliare di 3 miliardi la spesa sanitaria. Certo, fosse stata fatta, avremmo potuto fare una riduzione del cuneo. Però, come lei sa, la spesa sanitaria dipende in gran parte dalle regioni e lì potrebbero esserci le sorprese per i cittadini. E in questo senso è proprio il non aver toccato la spesa sanitaria, ma aver avviato una vera revisione della spesa, perché ci sono sprechi, lo sappiamo, ci sono dei costi standard molto diversi. E vorrei ricordare a questo proposito, si parla spesso di costi standard, alla fine dell'anno dovrebbero finalmente essere completati questi costi standard e quindi riuscire ad aggredire la spesa pubblica in maniera più seria piuttosto che i tagli lineari. Un altro tema che ha toccato il ministro Giovannini questa mattina ad Omnibus, servono 1,5 miliardi almeno per dimezzare i poveri in Italia. Le risorse non le abbiamo trovate, ma stringerò e spingerò perché ci siano in Parlamento. Se volessimo portare tutte le persone che sono sul livello di povertà, almeno a metà rispetto a quanto oggi sono, cioè io guadagno 400 euro, supponiamo, e la linea di povertà è 900, bisogno di integrare per 500, sì, e invece integro per 250, costerebbe 1,5 miliardi. E queste risorse non sono state trovate nella legge di stabilità. Io continuerò a spingere il Parlamento a riflettere su queste cose, soprattutto perché ci sono soggetti che non fruiscono gli ammortizzatori sociali, sono alle estreme, direi, limiti della nostra società e non possiamo continuare a accettare questa cosa. L'Italia insieme alla Grecia è l'unico tra i grandi paesi europei, l'Europa 15, che non ha un meccanismo di questo tipo. Credo sia assolutamente venuto il momento di realizzarlo. Ed eccoci ritrovati, andiamo subito al primo approfondimento di oggi. E come vi dicevo prima, abbiamo deciso di affrontare questo argomento non tanto perché non fosse importante naturalmente, ma in questi giorni di argomenti decisamente rilevanti ce ne sono stati molti, ma perché la notizia è stata riportata da pochi giornali e per la verità ce l'hanno proprio sollecitata anche gli ascoltatori. Dice, ma sapete niente di questa indicazione che è stata data nell'ultimo rapporto pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale, che inviterebbe i paesi in difficoltà per ripianare le difficoltà di bilancio appunto a eseguire una maxi patrimoniale, un maxi prelievo di capitale? E allora ieri ci aveva incuriosito il fatto che con un Twitter il Fondo Monetario avesse negato questa circostanza e avesse detto che in realtà forse i giornali avevano un po' letto male quello che conteneva questo fiscal monitor. Noi invece oggi, proprio perché invece voi siete stati molto interessati all'argomento, abbiamo deciso di approfondirlo e per farlo questo tema appunto lo approfondiamo con il professor Gustavo Piga, economista all'Università Tor Vergata di Roma. Professore, buonasera. Buonasera, come sta? Tutto bene, grazie. Lei? Piacere sentirla, bene, grazie. Molto bene, grazie. Allora, abbiamo chiesto al professor Piga di andare a pescare l'ultimo fiscal monitor. L'ho trovato. Ecco, pagina 49, un innocuo box, diceva il collega del Sole 24 Ore, Vito Lops. È davvero così innocuo, professore? Sembra una bomba d'orologeria. No, assolutamente no, perché il tema comunque nelle stanze chiuse, secondo me, si dibatte. Però quello che è interessante è che non parlano solo di patrimoniale, ricordano quali sono i tre strumenti che uno Stato ha sempre a disposizione, se proprio vuole farlo, per abbattere il debito pubblico, e sono uno la patrimoniale, l'altra l'inflazione e la terza il default, cioè il non pago più il debito, che sono tre strumenti molto diversi, anche se poi l'obiettivo che raggiungono è simile, per il loro impatto redistributivo. Le tocco al volo uno alla volta. Qual è la differenza tra patrimoniale e insieme invece l'inflazione forte, che probabilmente è molto difficile con la banca centrale che ci ritroviamo, o addirittura il default? Beh, intanto la patrimoniale tocca interessi prettamente locali, mentre tipicamente l'inflazione e il default sui titoli di Stato sono detenuti anche da esteri, e quindi c'è uno spostamento del carico di chi paga anche verso l'estero, quindi in termini nazionali uno potrebbe dire scarico i miei problemi meglio non con la patrimoniale ma con l'inflazione o il default. Ottimo. La patrimoniale ovviamente chi salva, chi risparmia in generale i creditori e dà una bella botta ai contribuenti o ai detentori del patrimonio in un certo senso, mentre l'inflazione e il default fanno un po' l'opposto, nel senso che siccome vanno a toccare i titoli di Stato fanno molto male ai creditori e meno ai contribuenti. Per esempio, io penso che il Fondo Monetario stia molto pensando a questa questione del default perché pensa alla Grecia. Ora, la Grecia, chi è il maggiore creditore in questo momento della Grecia? Prima erano le banche, no? Ma le banche le abbiamo salvate. Adesso chi presta alla Grecia, paradossalmente, sono i paesi. In particolare, se perché intervengono nel fondo salva stati, dice lei, ognuno contribuisce a questo. Se la Grecia fa default, chi paga finisce per essere l'Italia. Se l'Italia fa default, chi paga potrebbe essere i tedeschi, con tutta una serie di contraccolpi politici notevoli. Però il punto chiave è che il Fondo Monetario fa i numeri, mette i numeri, cioè parla di area euro e quindi non parla del mondo come gli aspetterebbe. Quindi retropensiero è, questo è il modo per salvare, per salvarci dalla crisi euro, e dice: se volessimo abbattere il debito pubblico ai livelli pre-crisi 2007, facciamo un esempio, l'Italia 2007 oggi sta a quel numero assurdo che è il 130%, l'Italia allora stava al 100%, no? Quindi sarebbe di abbattere del 30% il debito del prodotto interno lordo il debito pubblico. Si faccia un po' i conti, è una bella patrimoniale da 400-500 miliardi. Se lei si fa i conti che la ricchezza netta del paese è quanto ammonta? Siamo circa 6.000 miliardi, sarebbe una bella patrimoniale del 10% con tutte poi le problematiche terribili, incredibili, sociali, di dover dire a una persona che c'ha la casa ma non c'ha il liquido, trova il liquido per pagare la patrimoniale. Tra l'altro, siccome il Fondo Monetario la indica proprio questa percentuale nel suo innocuo box di pagina 49, dice quale sarebbe l'imposizione fiscale necessaria per riportare i debiti pubblici ai livelli pre-crisi. Richiederebbe, dice il Fondo, per un campione di 15 paesi della zona euro, un taglio della ricchezza netta di circa... Ma a me pare che parli proprio dell'Italia, invece, perché per tutti i paesi potrebbe essere il 10%, professor Piga. Ma io le ho fatto l'esempio dell'Italia. Secondo me, se uno guarda quanto è preoccupato il Fondo Monetario della situazione greca, può darsi che la Grecia, ed è giusto perché l'anello debole è in Grecia e la sofferenza in Grecia è talmente forte che si può, invece, visto che gli eurobond non si possono fare, la solidarietà a rovescio sarebbe quella di dire: facciamo fallimento sui titoli di Stato greci e gli italiani e i tedeschi contribuiscono. Però io qua voglio tornare su un punto importante, al di là del fatto che poi dicono un'altra cosa interessantissima, dicono: se lo fate, fatelo bene, fatelo di notte. Cioè dicono, guarda, che se non le altre esperimenti che abbiamo visto nella storia è che se si comincia a parlarne troppo, ovviamente cosa fa la gente? Comincia a scappare con il patrimonio e lo rende irreperibile. Cosa che già, no? Diciamo, sta facendo in Italia, non è che non bisognerebbe parlare con Giuliano Amato, che di queste cose... Esatto, è pratico, infatti l'ha già fatta, pratico. Quindi ecco, avranno preso quell'esempio là. Ma, però il punto chiave, scusi, è un altro. Certo. Il punto chiave è: cosa cambierebbe? Supponiamo che anche questa patrimoniale si riuscisse a fare, che praticamente, come le ho detto, è impossibile, ma supponiamo anche che si riuscisse a fare, riusciamo a risolvere i problemi europei? Beh, ovviamente i problemi europei li leggiamo nello spread, no? Nel fatto che continuiamo a non convincere il mondo, i mercati, che questo progetto europeo si tiene in piedi e riuscirà a tenersi in piedi in futuro. C'è nello spread un'aspettativa che un giorno tornerà la dracma o torna la liretta, no? Cosa succederebbe se domani l'Italia avesse un debito del 100% agli spread? Questo è un punto importante, che molta gente pensa che se il nostro debito pubblico scendesse al 100%, lo spread andrebbe a 80. Allora, sì, ma perché i mercati danno uno spread alto all'Italia? Perché pensano che l'Italia non sia un buon creditore, debitore. E perché pensano che non sia un buon debitore? Perché pensano che l'Italia non è capace di generare quelle risorse con cui si ripaga il debito. E che cosa vuol dire? Pensano che l'Italia non sia capace di fare crescita. Ed è vero, questo è il vero problema. Allora, secondo lei, se uno va in banca e è considerato un cattivo debitore... Certo, chi lo guarda, figuriamoci. Adesso non lo danno neanche il credito ai buoni creditori, figuriamoci, esatto, è cattivo. Esatto, supponga che gli annuncia: guarda, è morta mia zia e ho avuto un'eredità fantastica, ti posso ripagare il debito. E questo gli ripaga il debito e poi dice: adesso mi presti per favore a dei tassi più bassi. Quella banca glielo guarda in faccia e dice: guarda, a me mi dispiace molto che è morta tua zia, ma tu sei sempre la stessa persona di prima, sei una persona poco affidabile e quindi io ti continuo a prestare, se vuoi nuovi prestiti, al tasso di prima. La stessa cosa succederebbe la mattina dopo che l'Italia, avendo fatto questa idiotica patrimoniale, si presenterebbe ai mercati con un debito del 100% sul PIL, e i mercati guarderebbero all'Italia e direbbero: benissimo, adesso mi dici come fai la crescita per ripagare questo debito. Visto che fino adesso non sei stato capace di farlo, certo. Allora ci vuole un cambiamento radicale di atteggiamento per rendere questo paese nuovamente dinamico. Queste non sono soluzioni, sono palliative. Ecco, diciamo che nella manovra di stabilità molte idee per riportare il paese sul sentiero della crescita ancora non ce ne sono. Lei che ne pensa? Direi proprio di no, è una manovra ulteriormente recessiva, mancano sia gli stimoli di breve periodo all'economia che servono alle piccole imprese per sopravvivere, sia il sogno di lungo periodo per un paese che funzioni meglio. Continuiamo a avere una scuola, un'università, un territorio dove noi non investiamo. La cosa più clamorosa è che lei leggerà che nella finanziaria aumentano le spese in conto capitale. Verissimo, ma all'interno di un progetto triennale in cui le spese in conto capitale sono programmate diminuire drasticamente. Quindi questo piccolo aumento che c'è stato nella finanziaria non compensa nemmeno il già programmato crollo degli investimenti pubblici. Siamo un paese che ha deciso o che non riesce a capire che la crescita si fa se si investe nel futuro e gli investimenti sono la leva primaria per rilanciare la crescita di un paese. Se questo governo e i governi di prima continuano a tagliare sulle università e sulle scuole, che sono i grandi investimenti per i giovani, e sui grandi investimenti pubblici che permettono alle imprese di riuscire a vendere in maniera più competitiva le loro merci, guardi che i tedeschi in Germania dell'Est con gli investimenti pubblici hanno rifatto un paese, sì, e l'hanno messo col motore giusto per poter poi diventare un hub importantissimo per la Cina e per l'Europa dell'Est, ma quello l'hanno fatto con gli investimenti pubblici. E invece le imprese vanno alla grande se hanno vicino uno Stato grande che li aiuta. Questo Stato grande noi non ci crediamo, facciamo un errore terribile, continuiamo a disinvestire nello Stato. Il circolo vizioso è che quando disinvestisci nello Stato, lo Stato diventa peggiore e tutto si arrotola. E qua invece insomma il massimo delle decisioni che si riesce a prendere, per carità, con tutto il rispetto di questo governo che cerca anche di far andare d'accordo una compagine politica estremamente eterogenea, se no non avremo un governo di larghe intese, quello che riesce a fare è che nomina un commissario per la spending review al quale dice: se non riesci a fare il tuo lavoro e non riesci a produrre in una tua relazione fra un anno i risparmi che ci siamo ripromessi di fare, aumenteremo le accise. Ecco quello che si fa, insomma, delle manovre, si sposta da una parte, si riporta dall'altra. Professor Piga, che le devo dire? Io spero di poterla intervistare una volta con buone notizie e raccontare di un paese che invece crede nella sua gioventù, nei suoi ragazzi e che fa di tutto per farli rimanere qua, perché ci sono delle buone opportunità di lavoro e delle opportunità di crescita. Però intanto dobbiamo invece commentare quello che dice il Fondo Monetario Internazionale, che ancora teme che qualche paese abbia bisogno invece di iniziative straordinarie per potersi rimettere in carreggiata per quello che riguarda il bilancio pubblico. Siamo paesi con delle grandissime risorse, e infatti ce la faremo. Il turismo e tanto altro. Grazie professor Piga, buona serata. Grazie molte. Ci fermiamo adesso, c'è la nostra prima pausa pubblicitaria, poi naturalmente andiamo a raccontarvi la giornata di borsa che oggi si chiude in leggera flessione per Milano, meno 0,40% sul FTSE MIBA tra poco. E andiamo subito al racconto della giornata di borsa, il tempo oggi mi è proprio scappato di mano. Chiara Cristoforo, il Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Deborah. Allora, bilancio negativo oggi per le borse, ma tutto sommato in miglioramento sul finale di seduta. Milano meno 0,4% sul FTSE MIB. Direi di fare subito i temi del giorno, cominciamo con il miglior titolo, Autogrill più 2,38%, cos'è successo? Questa mattina Autogrill ha diffuso una nota, un comunicato, e amplia la sua presenza nel Regno Unito e si è aggiudicata due nuove concessioni per le attività di food and beverage nelle stazioni dell'Eurotunnel e all'interno dell'aeroporto di East Midlands. Si tratta di due accordi che garantiscono ricavi importanti, il primo è da 105 milioni di sterline e il secondo 70 milioni. Il titolo era calmo in apertura, poi dopo la notizia è migliorato e ha chiuso così. E il premio del mercato per questa notizia: Salvatore Ferragamo più 2,20, il settore del lusso dopo giornate difficili riprende quota, oggi UbiBanca più 1,30, A2An rialzo di un punto, Unicredit più 0,6, altre banche sono negative, ma tutto sommato dopo che Moody's questa mattina ha detto attenzione perché sono pronta a ridurvi il giudizio, in realtà tutto sommato hanno ottenuto almeno qualcuna, Chiara. Sì, infatti quelle che hai citato sono le eccezioni positive, ma comunque il tono generale di tutto il comparto bancario rispetto alla mattinata è migliorato. In mattinata, come ricordavi tu, c'è stata la notizia di Moody's che ha avuto i suoi effetti. Moody's ha confermato l'outlook negativo, quindi la visione negativa sugli istituti italiani, perché il sistema bancario del nostro paese, secondo l'agenzia di rating, è fragile a causa del contesto economico difficile e dei crescenti problemi sul fronte dei prestiti. Quindi anche se Moody's sottolinea qualche miglioramento in generale, per esempio sul fronte del della qualità del capitale, sul migliore accesso al finanziamento, però insomma la minaccia è quella di ancora ulteriori tagli di rating. Però nel corso della giornata, complice anche uno spread che resta sotto controllo, siamo sempre in area 230 punti base, alcuni titoli hanno migliorato la performance. Tema caldo del giorno Telecom, perché c'è in vista un'assemblea per azzerare il consiglio di amministrazione. Questa è stata infatti la richiesta che è arrivata ieri sera dal socio Findim, da Fossati, e questo chiaramente ha riacceso la speculazione un po' sul titolo. È stato in altalena tutto il giorno, è aperto in positivo, guadagnava l'1%, poi meno 0,6%, poi di nuovo in positivo, chiude in rialzo di mezzo punto percentuale a fronte di un mercato in calo dello 0,5%. Ancora lo scontro qui è con Telefonica, e quindi diciamo che si sta a guardare quello che succede, soprattutto quello che succederà soprattutto in Brasile. Il tema caldo adesso è la questione di Team Brasil. C'è stata anche un'altra notizia su Telecom. Oggi da Roma è arrivato il via libera del Senato alla mozione che chiede al governo due cose: uno, che faccia un decreto per rafforzare i poteri di controllo della Consob, e due, che venga introdotta una seconda soglia di OPA oltre a quella attuale del 30%, quindi si muove parallelamente al fronte finanziario anche quello politico. Fiat meno 2,28%, peggior titolo insieme ad STM che perde l'1,77%, questa società probabilmente risente della trimestrale di Intel che non è piaciuta molto al mercato. Azimut meno 1,30, Case New Holland meno 1. Chiara, scegli un titolo, l'ultimo del quale parlare oggi. Ma direi Mediaset, perché è stata la protagonista delle ultime sedute, ne abbiamo parlato tanto, oggi è stata in altalena, chiude a meno 0,42%, ma in mattinata guadagnava un 2%, un po' il titolo simbolo dell'andamento di questi giorni, perché è stata colpita semplicemente da realizzi e prese di beneficio, mentre il tono di fondo resta positivo, segnali di ripresa del mercato pubblicitario che oggi sono stati sottolineati anche da Cairo nel corso di una conferenza stampa. Tra l'altro, guarda, te ne faccio fare un altro, Monte dei Paschi meno 0,17, in realtà c'erano delle notizie oggi sulla fondazione. Si è parlato stamattina sui giornali, si inizia a parlare delle modalità della cessione delle quote della fondazione. Il Corriere della Sera ha scritto che è stato dato mandato alla SAR per avviare la procedura di vendita di una parte del 33% in mano alla fondazione, mentre il Sole scrive che c'è anche l'opzione della vendita dell'intera partecipazione, quindi una discesa non è in dubbio, è certa, ma adesso si inizia a parlare di modalità, quindi si fa un po' più concreta la questione. Grazie a Chiara Di Cristofaro per essere stata con noi. Buonasera Chiara. Grazie Deborah, buonasera. Noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, ma prima saluto il prossimo ospite. Grazie per essere con noi la dottoressa Maria Cannata, direttore generale del debito pubblico del Ministero dell'Economia. Buonasera. Buonasera. Pronta a partire la nuova emissione del BTP Italia, ve ne parliamo fra neanche due minuti. Eccoci ritrovati in diretta subito. Allora, farci raccontare la nuova emissione del BTP Italia prevista dal 5 all'8 novembre dalla dottoressa Maria Cannata, direttore del debito pubblico del Ministero dell'Economia. Intanto, dottoressa Cannata, la prima domanda però mi corre l'obbligo di chiederle. Ho letto che ci sono molti risparmi per il Ministero dell'Economia decisi anche ieri nell'ambito della manovra di stabilità. Toccano anche lei? Non lo so, no, non personalmente. No, certo, volevo dire il suo ufficio. Non quelli so. Del pubblico impiego potrebbero toccare, non lo so. No, stavo scherzando naturalmente, però insomma qua i sacrifici dobbiamo farli un po' tutti. Allora andiamo a questa operazione dal 5 all'8 novembre, questa è la quinta emissione complessiva del BTP Italia, se non mi ricordo male, dottoressa Cannata, giusto? Sì, esatto. È la quinta, ed è la seconda di quest'anno. Allora leggo subito che il Tesoro non ha previsto modifiche alle caratteristiche finanziarie del titolo, 4 anni eccetera, però per questa nuova emissione ci sarà una novità che riguarda la chiusura anticipata. In che cosa consiste la novità? Consiste nel fatto che se dovesse esserci una valanga di sottoscrizioni come è avvenuto l'ultima volta ad aprile dopo il primo giorno, potremmo decidere di chiudere l'operazione non alla fine del secondo ma alla metà del secondo giorno, alle 14 cioè. E questo perché per gestire il profilo delle scadenze future a noi fa molto piacere fare delle emissioni grandi, ma non possiamo esagerare perché dobbiamo poi gestire alla scadenza un ammontare molto elevato. Certo. Nelle passate emissioni il BTP Italia complessivamente ha permesso al Tesoro di raccogliere qualcosa come 44 miliardi di euro. In questo caso lei so che previsioni non ne fa mai, ma ci sono delle aspettative? Anche perché so che questo è un titolo richiesto. Ci sono aspettative di tipo qualitativo, nel senso che abbiamo ricevuto molte richieste di sapere quando ci sarà questa nuova emissione, e quindi siamo abbastanza fiduciosi che la risposta del pubblico sarà positiva. Glielo posso confermare perché scrivono anche a noi, sapendo che la intervistiamo molto spesso, chiedono anche alla radio se sappiamo appunto quando avvengono le emissioni, e qui adesso lo confermiamo, diciamo. Lo sappiamo, dal 5 all'8 novembre. Dottoressa Cannata, recentemente avete concluso anche un'altra operazione, l'emissione del BTP a 7 anni, una scadenza che non c'era, che è stata appunto proposta dal Ministero dell'Economia per la prima volta, perché anche in questo caso era un'esigenza abbastanza specifica, soprattutto da parte della platea degli investitori istituzionali. Quell'operazione è andata molto bene. Molto bene, devo dire siamo veramente molto soddisfatti, anche per la varietà degli investitori che abbiamo visto, sia dal punto di vista qualitativo, cioè per esempio abbiamo visto una quota non abbastanza significativa di banche centrali, che su una scadenza così oltre i 5 anni non è così comune vederla, e anche di corporate. Onestamente, istituzioni non finanziarie che comprano titoli di Stato così direttamente non sono così usuali. E anche dal punto di vista geografico abbiamo visto una bella diversificazione, magari non sempre con ordini grandi, ma alcuni paesi o non li avevamo proprio mai visti. Ah, per esempio? Per esempio, non so, Lettonia, Malta, Israele, Libano, Libia, insomma, non sono frequentissimi da vedere. Cioè, c'è stata una diversificazione geografica molto, molto vasta. Mm-hmm. Poi, in termini invece importanti dal punto di vista della partecipazione, sono tornati gli scandinavi, hanno avuto il 6,3%. Una quota di spagnoli assolutamente insolita, perché sono stati allocati per oltre il 7%. Infatti, anche perché c'hanno talmente tanti problemi loro che vengono anche, voglio dire, a comprare paesi che sono super giù nelle loro stesse condizioni, un po' meglio adesso perché lo spread si è un po' riequilibrato, però insomma, se vogliamo andare sì, a vedere... Sì, è significativo, dimostra effettivamente una esigenza di investire in quel segmento di scadenza. Quindi è stata una scelta che è stata, diciamo, confermata subito nell'interesse genuino, e che ci consentirà di distribuire meglio lungo tutta la curva le nostre emissioni in futuro. Il tasso reale annuo minimo garantito per la nuova emissione del BTP Italia sarà comunicato al pubblico il 4 novembre, quindi lunedì, il giorno precedente all'inizio dell'emissione. Per illustrare le caratteristiche del titolo, visto che addirittura vi siete attrezzati al Ministero, dottoressa Cannata, con dei video guide. Sì. Abbiamo fatto dei mini video di guida esplicativi, dove rispondiamo già a tutta una serie di domande che possono essere le prime domande del pubblico interessato a questa sottoscrizione. Ecco, quindi se non riusciamo oggi a rispondere agli ascoltatori che già ci stanno scrivendo, consigliamo appunto di andare sul sito del Ministero dell'Economia. Dottoressa Cannata, ad oggi quanti titoli di Stato hanno le famiglie italiane? Quanta quota c'è del debito italiano appunto sul tessuto domestico? 10%, questo è un po' difficile dirlo con precisione. Guardando però le statistiche recenti della Banca d'Italia, abbiamo visto un certo trend in crescita. Non è proprio enorme, ma sicuramente è significativo ed è superiore a quello di altri paesi. Qualcosa che sta tra il 13 e il 15%, altrove non è così. Benissimo, noi siamo quasi verso la chiusura, però un'ultima domanda, dottoressa Cannata, gliela vorrei fare. Lei lo sa che c'è in Italia questa forte polemica, che le banche non erogano credito a famiglie e imprese perché sono tutte impegnate sempre a presenziare le aste del tesoro e ad imbottirsi di BTP. Ma che rispondiamo? Prima di tutto rispondiamo che nelle aste del tesoro partecipano anche ampiamente quelli che sono gli specialisti non italiani, e che sono 17 su 20. Quindi, certo, le banche possono nelle loro scelte di investimento decidere di sottoscrivere titoli di Stato. Non credo che la sottoscrizione di titoli di Stato debba essere vista come un'alternativa all'erogazione del credito. Temo piuttosto che le misure prudenziali, che giustamente sono state aumentate da parte delle banche, abbiano indotto ad una ulteriore maggiore prudenza nel concedere il credito per realtà che sono già in sofferenza. Va bene, magari di questa, come dire, situazione parleremo in un'altra circostanza. Sente che abbiamo la musica in sottofondo, quindi non ho il piacere di continuare questa intervista, ma ci risentiremo magari proprio a ridosso dell'operazione. Grazie dottoressa Cannata, buon lavoro. Prego, buonasera. A presto. Eccoci ritrovati in diretta. Rivolete il bollettino medico? Lo avrete. Sebastiano Barisoni non ci sarà ancora per molti giorni perché si è rotto una gamba, mi ha autorizzato a dirlo. Se volete sveleremo giorno per giorno tutti i misteri di questa lontananza, che per la verità non ce ne sono. Adesso non esageriamo, vorrei chiedere come si è rotto la gamba, direi che sono bellamente anche degli affari suoi, anche perché non è che sia proprio molto contento di questa lontananza. Io intanto saluto e ringrazio per essere con noi Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Buonasera. Buonasera. Preoccupato, grazie. Anche lei, vogliamo salutare Sebastiano per questa sua forzata assenza da questo microfono? Sì, in bocca al lupo, ecco. Esatto. Perché abbiamo interpellato il dottor Tabarelli? Perché qualche giornale ha scoperto questa doppia clausola di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità che potrebbe fare aumentare l'aggravio fiscale. Infatti già il PDL è proprio in rivolta contro il governo, in questo momento c'è molto fermento a Roma. Ma qual è la novità? Da una parte aumentando le accise, dall'altra diminuendo le agevolazioni fiscali del 19%. Per la verità questa seconda parte già l'avevamo intravista in questi giorni anche nelle anticipazioni della manovra di stabilità che poi è stata appunto formalmente approvata. Allora, lo hanno lo hanno messo in evidenza il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera. Rischio stangata sulle accise per 10 miliardi in 3 anni se non si taglierà la spesa. Questo è quanto riporta il Sole, che spiega come questa clausola di salvaguardia, che potrebbe riguardare benzina o sigarette, scatterebbe dal 2015 se il commissario per la spending review Carlo Cottarelli non riuscisse a tagliare la spesa. I tagli previsti sono di 3 miliardi per il 2015, di 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi nel 2018. Ma il rischio di aggravio fiscale è previsto come salvaguardia anche dalla norma che taglia di 500 milioni le agevolazioni fiscali, una selva di 720 sconti che dovrà essere sfrondata entro il 31 gennaio del prossimo anno. Rimaniamo però a un rischio aumento accise. Dottor Tabarelli, ha letto i giornali? Sì, ho visto il vostro pezzo, è un pezzo molto fondato, che testimonia la vostra attenzione ai meccanismi sempre più complessi della burocrazia, dell'euroburocrazia. In realtà questo meccanismo era stato già sfruttato anche 2 anni fa, nel senso che è stata posta una disposizione in base alla quale se non si riesce a trovare copertura per certe manovre, spese, così automaticamente partono. Si va dove i soldi si trovano in 2 nanosecondi. Insomma. Esatto, lì, ma anche però questo bisogna stare attenti perché ci stiamo evitando. Nel senso che noi ne stavo controllando in questo momento gli ultimi dati. Eurostat, noi abbiamo in assoluto il prezzo più alto della benzina, questo si sapeva, da qualche settimana abbiamo anche quello del gasolio e questo è dovuto alla tassazione. Ovviamente quelli che stanno vicino alle frontiere lo sanno molto bene, che in Francia costa 35 centesimi in meno come in Slovenia, Austria e Svizzera, infatti c'è una migrazione, poi c'è però l'effetto reddito italiano, in sostanza i consumi di carburante in Italia stanno crollando e crollano anche le entrate, perciò è un circolo vizioso che non se ne per cui insomma anche se si ipotizzano, oltretutto appunto questa è ancora solo un'ipotesi, vedremo se Cottarelli sarà in grado, lo sarà senz'altro, di fare il suo lavoro, di trovare tutte quelle spese che potranno essere appunto sfrondate e tagliate molto rapidamente, però di fatto appunto è un'ipotesi che è stata messa sul tavolo. Tra l'altro dottor Tabarelli, proprio ieri abbiamo anche commentato con Giaprimo Quagliano del Centro Studi Promotor il tema del nuovo calo delle immatricolazioni, anzi in Europa hanno ripreso a marciare perché c'è stato il segno più, la CEA ha diffuso questo dato ieri, in Italia invece abbiamo ancora il segno meno e chiaramente per Fiat tutte le difficoltà. Qualche ascoltatore ci chiedeva questa condizione problematica in Italia nelle vendite di auto è dovuta anche al redditometro. Quagliano ha detto ma non ci penso per niente a dare la colpa allo strumento appunto di accertamento fiscale, il tema è proprio il costo dei carburanti. Avere un'auto oggi è diventato molto complicato, molto costoso, molto oneroso e chiaramente qua sfidando anche continuamente l'automobilista con questa tassazione, mi pare che la situazione, come diceva giustamente lei, continuerà ad avvitarsi. Guardi, noi abbiamo delle statistiche molto precise che sono indicative anche di tutto l'andamento dell'economia generale, perché uno dei prodotti più consumati, pervasivi, più indicativi della salute o della non salute di un'economia è proprio il consumo di carburante, sia per piacere delle famiglie che per trasporto merci. Ecco, qua i dati sono negativi da parecchi mesi. A settembre abbiamo avuto un altro calo della benzina intorno al 5%, siamo nei primi 9 mesi, il gasolio continua a calare. C'è un effetto proprio dovuto al fatto che i prezzi sono troppo alti. Così a livello teorico abbiamo sempre detto che la benzina e il gasolio sono dei prodotti molto rigidi all'aumento dei prezzi nella loro domanda. Ovviamente questa rigidità si manifesta per certi livelli di aumento, purtroppo negli ultimi 2-3 anni abbiamo avuto dei balzi tali che invece la gente comincia a stare a casa e guidare di meno. L'aspetto positivo poi è posso che... dire anche perché ancora ci tiriamo indietro queste accise vecchissime anche lì, come si fa a giustificare ad un contribuente, ad una famiglia appunto l'esistenza anche di queste accise che sono state lì messe nel 35, nel 56, nel 60, siamo sempre, abbiamo fatto tante volte questo discorso, lo so, però veramente sì, sempre... L'aumento viene fatto ultimamente, è stato fatto per i ferrotramvieri che facevano lo sciopero a Milano, oppure per il teatro, finanziamenti speciali al teatro italiano. Perciò ce l'hai dentro di tutto senza dare la guerra in Abissinia. Una volta che cessa di la spesa per quel tipo lì ben preciso di capitolo sul bilancio dello Stato, è ovvio che ne abbiamo sempre altre. Cioè, noi siamo un paese che spendiamo 800 miliardi, ne incassiamo 700, perciò delle entrate ce n'è sempre bisogno. Negli altri paesi la grande differenza, nei paesi dove le tasse sono molto alte come in Svezia, in Gran Bretagna, è che la spesa pubblica è molto più efficace, questo infatti è il grosso problema. Ci dobbiamo dare allo shale gas come negli Stati Uniti, Tabarelli? Ma guardi, noi senza andare tanto nello shale gas, senza che è una cosa solo americana, una grande rivoluzione, ma difficilmente esportabile per una serie di ragioni, noi abbiamo tantissimo gas convenzionale, che a casa paghiamo 80 centesimi, alla frontiera i russi ce lo vendono a 30 o gli algerini, e noi potremmo produrre qua a dei costi che sono intorno a 10-15, insomma qualcuno ci guadagnerebbe perché non è che lo venderebbe così basso, però sarebbero dei profitti che rimarrebbero qua, delle tasse che rimarrebbero qua, delle royalties che rimarrebbero qua. È assurdo, quasi stupido se mi consente, che non riusciamo a fare questi giacimenti e sfruttarli, ed è una ricchezza nazionale, è un peccato. Grazie a Davide Tabarelli per essere stato con noi. Insomma, allora, questi nuovi aumenti delle accise, almeno quelli indicati nella manovra di stabilità, nella clausola di salvaguardia, sono lontani nel tempo, a meno che non si verifichi qualche altra emergenza prima che imponga appunto un altro interventino così tanto per gradire. Tabarelli, speriamo di no. Speriamo di no, però insomma, sempre dietro l'angolo l'aumento delle accise sul carburante. Grazie per essere stato con noi, il presidente grazie di Nomisma Energia. Abbiamo nuovamente suggerimenti per chi è in viaggio, poi ci ritroviamo e andiamo ad infierire ancora su un altro tema gravissimo che riguarda il nostro paese, che è la condizione economica del meridione. Eccoci ritrovati in diretta per l'ultima parte del nostro programma, e ancora vi ricordo 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Siete incredibili, oggi ce ne state scrivendo davvero tanti, state commentando anche il tema che abbiamo affrontato poco fa, cioè la prospettiva che qualora non si riuscissero a fare i tagli di spesa che ha il compito di individuare il commissario alla Spending Review Carlo Cottarelli, appunto sono pronti a scattare dei nuovi aumenti sulle accise, perché in qualche modo appunto i buchi devono essere coperti, e chiaramente vi indispettisce questo argomento, lo crediamo bene, anche perché questa situazione anche del carburante sta portando molte famiglie a rinunciare completamente all'utilizzo dell'auto. È chiaro che molti lo possono fare, ma non è detto che possano farlo tutti, per cui dobbiamo trovare anche forse qualche altra alternativa per alimentare le automobili. Abbiamo scherzato un po' con il dottor Tabarelli dello shale gas americano, ma insomma forse avremo anche noi delle alternative in Italia, chissà che non potrebbero anche servire a risollevare il Sud Italia da questa situazione, diremo a questo punto proprio drammatica, nella quale si trova, secondo la fotografia che emerge dal rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno 2012 presentato oggi a Roma. Svimez è l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, e ci racconta quello che appunto indica questo rapporto il professor Gianfranco Vieste, docente di economia, che è caduto, non riusciamo a tenere questa telefonata, oggi sono 3 volte che proviamo a farla, ve lo racconterò tutto io questo rapporto, ma Stiamo appunto mettendoci in collegamento con Gianfranco Viesti, che è docente di economia all'Università di Bari ed è il direttore dell'Istituto di Ricerca e Sviluppo del Mezzogiorno, il CERPEM. Intanto comincio già a dirvi qualche cosa. Un mezzogiorno a rischio desertificazione industriale, dove i consumi non crescono da 5 anni, con una disoccupazione reale ad oltre il 28% e dove una famiglia su 7 guadagna meno di 1000 euro al mese. Per il 5º anno consecutivo, dal 2007, il tasso di crescita del prodotto interno lordo meridionale risulta negativo e dal 2007 al 2012 il PIL del Mezzogiorno è crollato del 10%, quasi il doppio del centro-nord, dove il PIL è sceso del 5,8%. Qualche altro dato che emerge da questo rapporto: nel 2013 il mercato del lavoro italiano ha continuato a deteriorarsi, ma il sud ha fatto peggio delle altre aree italiane. Adesso vi racconteremo quanto peggio. Professor Viesti, ce la facciamo? Buonasera. Buonasera a voi. Eccoci qua. Allora, ho dato già qualche indicazione rispetto a questo rapporto che è stato presentato oggi a Roma e chiaramente come dire, la frase che avete scelto per l'attacco è come dire, quella proprio che serve tipicamente ai giornalisti poi per fare i titoli dei giornali. Un mezzogiorno a rischio desertificazione industriale. Sì, questa è la frase che ha scelto la Svimez. Mi pare che il rischio sia molto forte nel mezzogiorno, ma purtroppo per noi è consistente per l'intero paese. Il sud è il pezzo più debole dell'Italia e sta subendo in misura ancora più accentuata la crisi che tutti noi viviamo. Il PIL dell'Italia ha perso 9 punti negli ultimi 5 anni, nel mezzogiorno ne ha persi 11. L'ordine di grandezza è un po' diverso, ma la tendenza è sempre la stessa. Gli occupati nel mezzogiorno scendono nei primi mesi del 2013 sotto la soglia dei 6 milioni. Non accadeva da 36 anni, dal 1977. Ma che cosa si fa in queste aree, professor Viesti? Perché noi veramente qualche volta, per chi lavora, per chi sta qua a Milano, sembra veramente anche una realtà, no? Impossibile solo da immaginare. Che cosa fanno le famiglie in queste zone? Ce lo chiediamo tutti. Come fanno a sopravvivere? Dunque, la verità è che non lo sappiamo esattamente, che la società italiana sta rispondendo con un'apparente calma a questa caduta di reddito così questo forte, su cui tutti noi ci interroghiamo. Incrociamo le dita che sotto la quiete che c'è in superficie non ci sia qualche terremoto in arrivo. Diciamo, è una società più frugale, è una società che ha un livello di consumi che si ridotto notevolmente e che quindi, diciamo, mette insieme. No, era un concetto bellissimo quello che ci stava spiegando Viesti, lo riusciamo a recuperare. Una società che ha delle abitudini molto frugali e che quindi anche grazie a questo riesce a sostenere un'intera famiglia con cifre inferiori ai 1000 euro, sicuramente qua si riesce probabilmente a vivere molto meglio rispetto a quanto probabilmente le case costano meno, il costo della vita è molto inferiore, però è anche vero che dal punto di vista della dignità di un paese tutto questo a noi quantomeno sembra piuttosto inaccettabile. Fabio dice nel mezzogiorno fanno il PIL in nero, sicuramente c'è come dire una modalità di sopravvivenza anche alle intemperie della vita che è diversa rispetto appunto al resto del paese. Professore Viesti ci stava spiegando appunto un concetto che era molto bello, la frugalità anche della vita di certe aree del meridione. Chiedo scusa agli ascoltatori, non è colpa mia, ma no, è colpa nostra che abbiamo cambiato collegamento. Certo, chiedo scusa agli ascoltatori. Diciamo, è un livello di vita più contenuto, più frugale, con una caduta dei consumi, soprattutto dei beni durevoli, molto forte, e una certa diffusione dello scambio e dei servizi non monetari. Diciamo, questo può essere il lato positivo. Il lato negativo è che c'è più sommerso. Lo diceva un ascoltatore, infatti, poco fa. Fanno il PIL in nero. Sì, pronto? Guardi, la sentiamo un po' a metà. Tendenze che non controlliamo. Ci può ripetere quello che ha detto negli ultimi 10 secondi perché l'abbiamo persa? Il sommerso, niente, purtroppo andiamo avanti così adesso ancora per 4 minuti, io soffrirò chiaramente in maniera indicibile, però riproviamo, vediamo se però magari un'ultima considerazione col professor Viesti la possiamo fare, perché però c'è anche una parte positiva di questo rapporto e noi vorremmo raccontarle, un po' si lega anche alle considerazioni che facevamo poco fa con Tabarelli, il tema dell'energia. Il Sud è leader indiscusso in Italia per lo sviluppo delle fonti energetiche, nel solo settore fotovoltaico il 29% degli impianti, circa 139.000, si trova al Sud, è chiaro che qua sono vincenti le condizioni climatiche di quest'area e quindi possono approfittare anche per far sviluppare questo ambito industriale. Quindi vi dicevo, A fronte di una produzione di potenza pari al 38% del totale nazionale, la Puglia è leader fra le regioni meridionali, appunto, per lo sviluppo del fotovoltaico. Per caratteristiche orografiche, professor Viesti, stavo raccontando la parte bella di questo rapporto, cioè il Sud leader indiscusso in Italia per lo sviluppo delle fonti energetiche, almeno questo. All'interno del Sud ci sono alcuni aspetti interessanti, soprattutto in prospettiva. Diciamo, quello che lo differenzia dal resto del paese è questa caduta così forte della domanda interna di consumi. Avendo una economia che esporta di meno, soffre molto di più. Una grande differenza rispetto al centro nord è che il sostegno che viene dai mercati esteri è molto più contenuto. D'altra parte non si può vivere, tutta l'Italia non può vivere solo di esportazioni, quindi se il mercato interno continua ad essere così debole ancora a lungo, soffrono tutte le imprese italiane. Certo, no, stavo dicendo, forse non mi ha capito nella domanda, il tema delle fonti energetiche, che comunque permette a quest'area del paese quantomeno di sopravvivere e di farsi anche, come dire, conoscere bene, no, in Italia, perché riesce ad approfittare delle condizioni climatiche a far sviluppare notevolmente il settore fotovoltaico. Su questo, diciamo, l'idea che non succede mai niente di buono è sbagliata. Se ci voltiamo indietro, tra fonti rinnovabili, sviluppo della produttività e della logistica, sviluppo dell'agroalimentare di qualità, vediamo tanti aspetti che diciamo danno fiducia nel possibile futuro. Il punto è che la domanda interna è debolissima. Se lei tiene conto che anche per le imprese esportatrici italiane, diciamo del centro-nord, l'export è un terzo del fatturato e i due terzi è domanda interna, ci rendiamo conto di come il Sud purtroppo possa prefigurare una tendenza complessiva per l'intero paese. È più debole del resto, ma non è che lì è notte e al centro-nord è giorno. Purtroppo dà una segnalazione accentuata di un disagio che è comune a tutte le imprese. Professor Viesti, grazie per essere stato con noi, ce l'abbiamo fatta ad avere anche un ragionamento completo nell'ultima parte, appunto, della nostra trasmissione. Peraltro i dati di Svimez sono stati commentati anche da Jacopo Morelli, presidente dei giovani di Confindustria, che domani iniziano i loro lavori, appunto, a Napoli nell'appuntamento autunnale. Morelli ha detto: sono dati drammatici, soprattutto non è mai stato così drammatico il dato sull'occupazione. Allora svegliamoci, facciamo qualcosa e pungoliamo anche questo governo a confezionare delle manovre di stabilità che in qualche maniera aiutino questo paese a rimettersi sul sentiero della crescita. Con una sudata memorabile abbiamo terminato Focus Economia. Grazie a Barbara Bianchi, che oggi ha sudato più di me, per la confezione della trasmissione. Grazie a Paolo Corleoni, che non vi dico che miracoli ha fatto con i telefoni. Ci sentiamo domani. Buona serata a tutti.